Sono al telefono con Alessandro Baronciani per parlare del suo ultimo lavoro, Mono che Rostina. Buongiorno Alessandro, benvenuto. Ciao a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato a Radio Cuscico e sono contento di poter parlare di Mono che Rostina, che tra l'altro è un fumetto un po' strano e quindi le ultime copie che ci sono in giro si trovano in libreria, quindi questa intervista capita a fagiolo. Come dicevi tu, è un fumetto un po' strano, no? Perché è un farma fumetto. Che cosa vuol dire? Che cosa intendi? È nato attraverso un crowdfunding online, una raccolta fondi, perché avevo questa idea un po' bizzarra di scrivere un fumetto dentro una scatola di fumetti. Quindi ogni episodio è una pastiglia del blister che esce dalla scatola. Il primo episodio è dentro il foglietto informativo, il bugiardino, no? E poi ci sono degli indizi. È un fumetto in cui devi cercare di capire come funziona la storia. Non ti do un ordine preciso, devi trovarlo tu seguendo le pastiglie, leggendo il foglietto informativo e quindi cercare un po' come la storia della protagonista che soffre di schizofrenia, cioè quella che si può dire sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie, e si trova appunto ad affrontare da sola questo problema e tu lettore, insieme ad Annalisa, che è il nome della protagonista, cercate di trovare, di rimettere insieme tutta la storia, rimettere insieme tutti gli indizi. È un fumetto interattivo in qualche modo. Come ti è venuta questa idea di coinvolgere più attivamente il lettore? Ma io sono un po' sempre fissato con queste cose un po' interattive, mi piace tanto provare a giocare con il sistema libro. È un'idea che per sbaglio mi è venuta in mente a una lezione in accademia tantissimi anni fa, quando il professore di antropologia culturale disse: ma perché dobbiamo leggere il libro dall'inizio alla fine? Perché non possiamo leggere un libro partendo dalla metà? E ovviamente era una cosa un po' provocatoria, un po' da accademia, un po' da artisti, però questa frase mi aveva colpito. Effettivamente per capire una persona o quello che ti racconta la persona, deve raccontarti le cose secondo degli step, anche altrimenti tu perderesti sempre il filo del racconto. Quindi già in precedenza con un altro libro che si chiamava Come svanire completamente, che è diventato un libro cult, introvabile, avevo provato a destrutturare il libro, dando la possibilità alle persone di cercare di raccogliere la trama, leggendo appunto la storia. Sono dei libri gioco, tra virgolette. Ricordano un po' le esperienze anche di Chris Ware con Buildings. Io gli ho dato una sorta un po' più di romanticismo italiano e un po' di appunto spleen mitteleuropeo. Mono che Rostina è uscito adesso ed è già praticamente finito, se non nelle copie appunto che si trovano nelle librerie. Penso che a Bologna lo potete trovare sicuramente alla UBIC di Via Irnerio. Questo sistema di interattività con i lettori, di coinvolgimento, l'hai attivato anche durante la campagna di autoproduzione. Ti volevo chiedere che cosa offre ora come ora la possibilità di autoprodursi? Autoprodursi è una cosa, soprattutto in questo periodo in cui le librerie non riescono a fare delle presentazioni di libri, quindi i festival non ci sono perché è tutto chiuso. Autoprodursi è un modo per garantirsi la pagnotta, tra virgolette. Detto questo, a me piace autoprodurmi quando ho testa delle idee che come si può dire, quando ho delle idee che sono difficili da portare in libreria. E quando ho fatto svanire completamente, il problema di mettere una cosa dentro una scatola è un problema grosso, perché non è un libro che si attiva direttamente. Quando uno passa in libreria, lo prende, lo guarda e se lo porta a casa, perché non può sfogliarlo. E soprattutto, se finisci in una libreria a caso, un libraio magari non sa neanche il contenuto di questo libro. A me piace fare dei libri che sono degli azzardi, delle sperimentazioni, e l'autoproduzione in questo caso ti aiuta, perché tu chiedi anticipatamente alle persone se vogliono acquistare questo prodotto. E secondo me è una cosa che soltanto l'autoproduzione ti permette di fare. Pensare a una cosa come Mono che Rostina 20 anni fa, quando ancora non c'era internet, sarebbe stato impossibile. Sarebbe stato un problema anche soltanto per una casa editrice pensare a un libro di questo genere, per i costi, perché sono molto alti, produzione di stampa del libro, e poi per la distribuzione, perché i costi sono ancora più alti e non avevi mai un'idea se questo libro sarebbe piaciuto o meno. Invece così, tu producendosi e facendo un sito online, tu hai già la possibilità di avere una tiratura, quindi i soldi in anticipo, e quando ti dico la verità, quando hai dei soldi in anticipo, andare in tipografia è fantastico, ti guardano tutti con un sacco di benevolenza. E quindi puoi, esatto, puoi pagare, sei sicuro dei pagamenti, e questa è una cosa molto bella. E in poi hai già delle persone che aspettano il libro, quindi in un certo senso hai già creato una sorta di hype, di interesse intorno al libro, e questa è un'altra cosa che mi piace tanto.